Terra in vista. L'Expo spiegato a mio figlio e ai genitori dei suoi amici. Ben ritrovati da Federico Taddia e Telmo Piovani. Ciao Telmo. Buongiorno. Buongiorno. Il nostro viaggio per spiegare l'Expo ai più piccoli. Ogni puntata una parola, le parole che così portano i contenuti di Expo, e questa parola cerchiamo poi di spiegarla ai nostri giovani ascoltatori. La parola di oggi è una parola saporita, una parola gustosa. Infatti la parola è gusto. Il gusto c'entra con l'Expo, Telmo? Beh sì, è tutto da assaporare. Il gusto è, sul piano scientifico, pensa, ancora un po' un mistero, è un senso, una sensibilità che ci permette di avere la capacità di percepire il dolce, il salato, l'aspro, l'amaro, l'umami, che è questo gusto per i cibi pieni di proteine. Però in realtà il gusto è molto più complicato, lo vedremo oggi. Tenteremo di dare la definizione appunto del termine gusto, ma prima, come sempre, abbiamo chiesto ai nostri giovanissimi ascoltatori di spiegarci cos'è per loro il gusto. Il gusto è uno dei cinque sensi, si sente con la bocca. Quando mangi una cosa e senti com'è. Quando qualcosa è buono. Tipo nella moda il gusto è di quello più bello. È un senso che sentiamo quando mangiamo o beviamo. Lo possono sentire le papille gustative e una cosa che ti piace o non ti piace. Quando magari mangi qualcosa tipo verdura, il gelato e altre cose, senti il gusto se è buono, è amaro, dolce, cattivo e così. È un sapore che sentiamo in bocca quando le cose che mangiamo ci piacciono. È un sapore che noi sentiamo tipo quando mangio una lasagna, un gelato. Amaro, aspro, dolce, piccante. Sempre imprevedibili nelle loro risposte. Mi è piaciuto quello che, nella moda ci vuole gusto, giustamente. Esatto. Allora, come la definiamo questa parola, Telmo? Ma allora, i bimbi sono stati bravissimi nel definire il primo livello del gusto, quindi quello che è dovuto alle papille gustative, la lingua, il sentire il gusto amaro, aspro, hanno detto benissimo. In realtà per gustare i cibi serve però anche molto naso. Noi spesso ce lo dimentichiamo, perché il sapore, che è il secondo livello, il gusto è il primo, il sapore è dovuto moltissimo anche all'annusare il cibo, quindi all'aroma che noi percepiamo, pensa a un caffè fumante per esempio, ma poi anche al modo con cui l'aria si distribuisce nella bocca e poi risale nel naso. È fondamentale per percepire i sapori dei cibi. E poi c'è il cervello che interpreta, perché come i colori non stanno là fuori, ma è il modo con cui il nostro cervello interpreta le frequenze della luce, così anche il sapore è frutto di come noi lo interpretiamo. E questo è il motivo per cui in certe culture qualcosa ha un cattivo sapore, mentre per altre è una cosa gustosissima. E poi c'è il colore, che credo che nell'evoluzione abbia contato molto, sì, vero? Perché quando poi arriva al cervello lì contano le emozioni, conta l'ambiente, gli odori, i colori, conta tutto l'insieme di ciò che stai gustando. Perché solitamente un cibo più colorato è un cibo più buono? Quello dipende, perché in natura le cose molto colorate a volte sono anche velenosissime. Dipende, è un messaggio il colore, può essere mangiami oppure stai molto attento a non mangiarmi. Tutto questo è il gusto, tutto questo è quello che scopriremo oggi in questa puntata di Terra in Vista. Adesso ci fermiamo, una filastrocca, il traffico e poi riparte il nostro viaggio. Frigosauro. Olè! Attenti al frigosauro, maestrazio predatore, per lui tutte le ore son buone a divorar. Olè! Attenti a panna e burro, alle torte col liquore, perché il divoratore non pensa che a mangiar. Olè! Attenti alla boccaccia del grande mangiatore, che già formaggio e pere comincia a masticar. Olè! Dannato il frigosauro, bestia paradossale, che mangia un capitale e poi ti sa incantar. Olè! Fermate il frigosauro, tremendo tentatore, che ti colpisce al cuore e d'amor ti fa ingozzar. Terra in vista. Terra in vista, eccoci qua, la parola di oggi è gusto. Come sempre cerchiamo di dare una spiegazione a questo termine, lo facciamo attraverso domande poste dai bambini. E questo è il loro primo quesito. Quando un cibo è buono? Bella domanda, quando un cibo è buono, che sembra, insomma, la risposta è molto soggettiva, no Telmo? Ognuno... Sembra facile, ma sentiamo. Cerchiamo di dare una risposta scientifica e per farlo abbiamo invitato Gabriella Morini, docente di scienze molecolari presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, la sede è quella di Pollenzo, lei è un'esperta di chimica del gusto. Ciao Gabriella, benvenuta a Terra in Vista. Benvenuta. Ciao. Allora, ciao. Si può rispondere a questa domanda? Si può dire quando un cibo è buono? Sì, diciamo che un cibo che è buono è un cibo che si fa mangiare volentieri più o meno da tutti. Okay. E questo perché? Perché il buono è proprio il sistema che abbiamo messo a punto durante la nostra lunga storia per dire che cosa devo mangiare, di che cosa ho bisogno. Ecco perché più o meno a tutti piace quello che è dolce, quello che è grasso, quello che è ricco, diciamo, sapido, che ha un gusto, quello che viene chiamato umami, oppure che è salato. Ok, ma questo vuol dire che quindi un cibo buono fa sempre bene, mentre i cibi cattivi fanno male? Ma dobbiamo pensare che l'uomo ha messo a punto questo sistema per decidere cosa era buono e cosa non era buono, quindi quello di cui aveva bisogno e quello di cui non aveva bisogno durante un cammino che è durato migliaia di anni. E in passato, quindi durante quasi tutto questo cammino che l'uomo ha fatto, il problema è sempre stato quello di avere abbastanza da mangiare. Ecco perché abbiamo messo a punto questi sistemi che ci attirano verso quello che è dolce, quindi che indica la presenza dei carboidrati, quello che è grasso, che indica la presenza quindi dei lipidi, quello che è di gusto umami, che indica la presenza di proteine, o quello che è salato e quindi che contiene il sodio. Il sistema del piacere, del buono, è proprio quello che abbiamo usato. Pensate quando andate in montagna, se togliete una maglietta che è sudata, e se ci sono delle capre vicino cercheranno di venire a mangiarla. Questo perché sono sensibili al salato, allo ione sodio. È fantastico, attenti quindi a dove mettete le vostre magliette. Telmo. Qui però c'è un problema, no? Perché in fondo cercare il cibo nella savana 2 milioni di anni fa, quando era molto scarso, voleva dire prenderlo subito, ecco perché siamo attratti dagli zuccheri e dei grassi. Ma oggi davanti a un fast food, a un centro commerciale, è molto diverso, no? L'abbiamo tutto lì, fin troppo, di cibo. Assolutamente sì, e questo perché a me piace dire che il gusto è un linguaggio, e come tutte, è il linguaggio che il cibo usa per comunicare con noi, e come tutte le lingue bisogna imparare a comprenderle. Quindi abbiamo visto per ora quello che era il piacere, mentre di solito il gusto amaro o il gusto acido non è particolarmente preferito, e soprattutto se vediamo ai bambini proprio non piace mai. Poi crescendo invece impariamo che non è vero che tutto quello che è amaro ci fa male, perché le cose amare sono state prodotte appunto dalle piante nel corso dei millenni anche loro per evitare di essere mangiate e via. Quindi crescendo già vediamo che cambiamo, cosa ci piace e non ci piace, quindi da piccoli assolutamente a nessuno piace quello che è amaro e quello che è acido, però poi crescendo impariamo che il caffè piuttosto che i broccoli non ci uccidono, anzi l'amaro delle verdure fa anche bene. Dobbiamo imparare lo stesso anche per quelli che sono i gusti che ci piacciono. In un mondo come quello di oggi, dove abbiamo grande abbondanza di zuccheri, di proteine, di grassi e di sale, dobbiamo imparare a non essere più solo guidati dalla gola, ma anche dalla nostra intelligenza. Ecco perché io dico sempre che il cervello è l'organo più importante del gusto. Certo, e tu invitavi in un'intervista a cercare i gusti strani, che quindi non sono buoni o cattivi, sono strani, quindi essere curiosi o osare. Sì, sono quelli che possiamo definire come il piccante del peperoncino, oppure il pungente dell'aglio o del wasabi, o appunto in alcuni casi anche l'amaro. Perché gusti strani? Perché questi composti, cioè questi gusti strani sono dovuti a dei composti, quindi a delle molecole che le piante producono per tanti motivi. Però oggi sappiamo che questi cibi con i gusti strani hanno anche una funzione un pochino di medicina, ci fanno anche bene. Pensiamo per esempio alle spezie. Le spezie sono sempre state usate sia come cibo ma anche per i loro risvolti positivi sulla salute. E quindi soprattutto nel nostro mondo in cui è molto facile avere accesso alle calorie, quindi agli zuccheri, ai grassi, eccetera, dobbiamo imparare a apprezzare, a mangiare di più questi gusti strani, perché come dicevo prima sono i gusti strani che fanno bene. Grazie davvero Gabriella per averci introdotto nel fantastico e saporito mondo del gusto. Ciao e buon terra in vista. Grazie. Grazie, ciao. Expo Pub, 100 cose da sapere per stupire mamma e papà. Marocco. A prima vista, il territorio marocchino potrebbe sembrare aspro e difficile da domare. Eppure, dona diversi prodotti che vi si adattano perfettamente e prosperano nelle sue terre. Ad esempio, nel nord del Marocco si produce il formaggio di capra di Chef Chaouen, caratterizzato da una pasta bianca, morbida al tatto, dal sapore dolce e dal gusto particolare conferito dalla ricchezza dei paesaggi. Altro prodotto tipico sono i succosi capperi di Safi. Grazie alla pianta del cappero, che sopporta le condizioni climatiche delle zone aride e semiaride e ha scarso bisogno d'acqua, il Marocco è il primo produttore ed esportatore mondiale di questi frutti. Consona al clima marocchino è anche la coltivazione del fico di Ouezzane, che, zuccherino e succoso, può dare anche 2 raccolti all'anno. Questi sono i nostri Expo Pub e poi ci sono i grandi racconti di Telmo Piovani. Telmo, siamo dei buon gustai noi uomini? Ma guarda, nell'evoluzione sì e no, ed è una questione di naso sostanzialmente, perché allora, se tu guardi i mammiferi hanno una caratteristica eccezionale. La maggiore quantità di geni che loro hanno, che noi abbiamo quindi come mammiferi, sono dedicati al naso, all'olfatto. I geni recettori olfattivi sono importantissimi, addirittura più di quelli del cervello. Ci siamo sempre chiesti perché, ma basta guardare come vive un topolino, o basta guardare quanto è bravo il nostro cane ad annusare il mondo, e ti rendi conto che per loro l'olfatto è fondamentale. Si è sempre detto che con noi succede qualcosa di diverso. Noi siamo dei primati, abbiamo cominciato ad evolversi quando si sono estinti i dinosauri, intorno a 65 milioni di anni fa, e si è sempre detto che noi, più che annusare il mondo, lo guardiamo. I primati sono gli animali che hanno questi 2 grandi occhi frontali, e infatti il nostro naso si è accorciato, il nostro muso si è schiacciato. Molto meno naso e molto più occhi. In realtà quello che hanno scoperto gli scienziati di recente è che noi abbiamo bilanciato questo minor naso con più cervello e più capacità di assaporare e di gustare le cose. Quindi non è vero che abbiamo perso il senso del gusto, siamo dei buon gustai discreti, anche se come naso un cane ci batte, il nostro cane ci batte decisamente. Ma perché, si diceva anche prima molto giustamente, il cervello che conta tanto nel gusto? Perché noi sentiamo sulla lingua delle sensazioni di base, poi le gustiamo, le manipoliamo all'interno della bocca attraverso il respiro, e pensa una cosa stranissima, noi sentiamo e portiamo al naso il cibo espirando, cioè mandando fuori l'aria e poi facendola rientrare nella bocca, una cosa di cui non ci accorgiamo e che può essere educata. Questo è il motivo per cui noi, educandoci, possiamo diventare capaci di percepire sapori che nemmeno immaginavamo potessero esistere. Il problema qual è? È che noi siamo nati in un posto in cui di cibo ce n'era poco, dovevi imparare ad annusarlo rapidamente, a vedere se era buono, a mangiarlo e a immagazzinarlo. Adesso questa capacità ci porta spesso a trovarci di fronte a una grande abbondanza di cibo e a mangiare troppo. E questo si pensa che sia il motivo evoluzionistico di un grande problema che è l'obesità. Tante parole che ritornano, però è bella questa cosa del gusto che si può allenare, lo si può educare. Adesso invece è il momento di Expo Kids e col gusto ci andiamo a giocare. Expo Kids, dire, fare, giocare. È il momento dell'arte e qui sì, ci vuole Gusto, momento dell'arte, che aspettiamo sempre appunto con trepidazione, aspettiamo i consigli di Alessandra Falconi, atelierista metodo Bruno Munari e collaboratrice del blog disegnangolo.it. Ciao Alessandra. Buongiorno a tutti voi. Ciao, benvenuta. Allora, quale attività ci proponi oggi legata al gusto? È stata particolarmente difficile, devo essere sincera, qui ci è voluta una bella ricerca. Poi ho pensato ai ghiaccioli per dipingere, perché i ghiaccioli, il gusto, l'estate, mi sembrava potesse darci qualche ispirazione. È vero, è vero. È un'attività però che dobbiamo fare con qualcuno vicino, perché i danni che si creano nel freezer potrebbero causare qualche discussione in famiglia. Quindi avvisiamo tutti i bambini sotto i 10 anni di dotarsi di una mamma, un babbo, una babysitter o un nonno a disposizione. Molto pazienti. Molto pazienti. Però vale la pena, Telmo, perché prendo la confezione con cui faccio il ghiaccio da mettere nella brocca estiva o addirittura il ghiacciolo vero e proprio. Al posto però di metterci il succo di menta o di fragola, metto un pochino di tempera. Infilo il batticchino, che poi mi sarà utilissimo per dipingere in un secondo momento, e lo metto nel freezer. E soprattutto non controllo ogni 3 secondi che il processo di refrigerazione sia andato a buon fine. Sì. Il giorno dopo, con questi ghiaccioli che posso utilizzare come pennelli insoliti, mi diverto a dipingere guardando tutte le sfumature. Se ho più colori a tempera, avrò fatto ghiaccioli di colori diversi. Quindi, oltre al piacere fisico di questa cosa freschissima nelle mani, guardo anche che segni riesco a produrre sul foglio di carta. Non male. Ma c'è stata anche un'interpretazione artistica di questa pazza idea? Allora, in realtà non con il ghiacciolo, ma con il gelato. Ed è un artista iraniano. Io però ho trovato qualche riferimento, diciamo, meno nell'arte contemporanea, se vogliamo, e più invece nei grandi classici, che mi è un po' piaciuto richiamare quadri da leccarsi gli occhi, perché ci sono opere come La Lattaia di Vermeer o Il grande Monet con Le Déjeuner sur l'herbe, che vale forse la pena fare una googolata e andare a cercare le immagini. Ma mi piacerebbe, Telmo, invitare i bambini a cercare un artista tedesco che si chiama Georg Flegel, che fa queste nature morte. Lui è un artista del 600, molto gustose, perché sono piene di incidenti narrativi come natura morta con ciliegia o natura morta con i dolci. Non male, la natura morta con i dolci, non male. Tutte queste immagini, tutte queste opere d'arte le potete vedere sul blog disegnangolo.it, così potete ascoltare, guardare, ma non gustare, cioè insomma, no, non con la lingua, perlomeno. Grazie Alessandra, al prossimo Expo Kids. Ciao. Ciao, presto. Grazie a voi. Adesso una filastrocca, la pubblicità, poi ancora qua con Terra in Vista. Filastrocca dei nuovi sapori. I sapori sono viaggi, sono mondi che tu assaggi. I sapori hanno orizzonti, hanno mari ed hanno monti. I sapori sono immensi, hanno cieli molto intensi. I sapori hanno radici, hanno storie ed hanno amici. I sapori, quelli nuovi, non li sai se non li provi. State ascoltando un programma offerto da Coop. Ti aspetta nel supermercato del futuro in Expo Milano 2015. Terra in Vista. Eccoci qua ancora, Terra in Vista, l'Expo spiegato a mio figlio e ai genitori dei suoi amici Federico Taddei e Telmo Pievani. La parola di oggi è gusto e cerchiamo di capirne di più attraverso le domande poste dai più piccoli. Andiamo a sentire cosa vogliono sapere. Yuhu! Perché i broccoli mi fanno schifo? Questa è una domanda gettonatissima, tra l'altro. Confermo, confermo. Fanno d'accordo. Fanno schifo anche a te? Sì, sì. Ah, sì? Sì, sì. Ah, quindi non ce la faccio proprio. No, proprio col broccolo, no. Niente. Andiamo a capire perché i broccoli ci fanno schifo e se questo è vero. E lo facciamo con Alfredo Fontanini, neurobiologo dell'Università Statale di New York. Ciao Alfredo. Ciao Federico, ciao Telmo. Ciao, benvenuto. Allora, grazie mille, grazie per avermi invitato. Tu studi proprio cosa succede nel nostro cervello, come i neuroni interagiscono tra di loro quando si parla di gusto. E quindi hai la risposta al perché i broccoli fanno schifo? A me piacciono, tra l'altro, quindi probabilmente sono un'eccezione. Non lo so, cosa succede nel cervello con i broccoli? Sì, allora io mi accomuno al gruppo di quelli a cui i broccoli fanno schifo, quindi solidarizzo in modo molto forte col bambino che ha fatto la domanda. Dunque, i broccoli contengono una sostanza chimica di una classe chiamata isotiocianati, e queste sostanze chimiche vengono percepite come amare. Il gusto amaro in natura è un gusto che è spesso associato ai veleni, alle sostanze velenose. E così gli animali nel corso dell'evoluzione hanno sviluppato una serie di strategie per evitare i veleni e quindi hanno imparato a non amare il gusto amaro. Quindi in qualche modo, non amando o trovando cattivi i broccoli, sì, noi è come se ci ricordassimo dei nostri progenitori e li pensassimo erroneamente velenosi. Però ci sono dei gusti amari che poi gli adulti apprezzano, sto pensando al caffè per esempio. Sì, assolutamente. Diciamo che i bambini, il gusto dei bambini è molto interessante perché svela in qualche modo quello che è un'organizzazione di base del sistema gustativo. È come se svelassero le nostre preferenze innate. È ovvio che i gusti vengono cambiati notevolmente dall'esperienza. Così, per esempio, nel caso proprio del caffè, che è un ottimo esempio, innanzitutto consumando una sostanza amara varie volte la troviamo sempre meno cattiva. Questo perché diciamo il ragionamento biologico dietro a questo sviluppo di questa preferenza è che se non ne veniamo avvelenati, mm-hmm, significa che è sicura, e quindi consumandola volta dopo volta dopo volta e non stando mai male impariamo che forse è buona. Poi nel caso specifico del caffè esistono degli aromi, una componente olfattiva di odori nel caffè che sono molto gradevoli. Spesso si può mettere lo zucchero nel caffè, certo, che quindi lo rende ancora più gradevole. E poi infine c'è la componente sociale che aggiunge un'ulteriore dimensione di piacere. E quindi diciamo è come se fosse un braccio di ferro tra l'amaro originale, che è cattivo, e tutte queste altre componenti che invece tirano verso lo sviluppo di una preferenza. Alfredo, ma è vero, dicevi adesso dell'olfatto, che per il gusto è fondamentale anche il naso, no? Per il sapore non è soltanto percepito dalla lingua, ma c'è tutto un sistema complesso tra cervello, naso e bocca? Sì, assolutamente, assolutamente. C'è un'interazione tra sistema olfattivo e sistema gustativo che è intensissima. La prima interazione è proprio quando mettiamo un cibo in bocca. Quando mettiamo un cibo in bocca, le molecole di questo cibo si dissolvono nella saliva e contattano i recettori del gusto sulla lingua. Però ci sono anche tante molecole, tante sostanze chimiche che diventano volatili e sanguinano fino al nostro naso e li attivano le cellule dell'olfatto e i recettori olfattivi. E quindi questa interazione tra gusto e olfatto comincia già a livello della bocca e poi viene continuata a livello di tutto il sistema nervoso. Uh-huh. Alfredo, ma cosa succede nel nostro cervello quando appunto un cibo non ci piace? Beh, allora, i meccanismi nervosi responsabili del disgusto proprio precisamente non sono ancora ben conosciuti, però si crede che ci siano due aree fondamentali, la corteccia gustativa e l'amigdala, nelle quali esiste una continua comunicazione. Queste due aree hanno neuroni, hanno cellule nervose che continuano a parlarsi tra di loro e a comunicarsi la preferenza o il disgusto per un cibo. Mm-hmm. Esistono, sono stati anche recentemente pubblicati degli articoli su riviste importanti, dei neuroni, per esempio nell'amigdala, che verrebbero attivati dai gusti piacevoli, come per esempio lo zucchero o il salato a basse dosi, e altre popolazioni di neuroni che vengono attivate dall'amaro o per esempio dall'acido molto forte. Ok, e lo si può ingannare il cervello, nel senso che ad un certo punto il broccolo mi può piacere? Oh, assolutamente, per esempio il cervello può essere ingannato in moltissimi modi, e questo perché il cervello è plastico e deve continuamente adattarsi. Un modo è quello di collegare appunto un sapore che non ci piace con delle componenti positive, così appunto il caso dell'esempio di prima del caffè con lo zucchero. Lo zucchero è quasi un magnete di piacere, tende a rendere piacevole qualsiasi cibo. Un altro modo per ingannare il cervello, e questo si collega a delle ricerche che facciamo nel mio laboratorio, è l'aspettativa. Per esempio, sono stati fatti degli esperimenti che mostrano che se a una persona si preannuncia che assaggerà una sostanza appena appena amara e invece le si dà una sostanza molto amara, questa persona la giudicherà meno amara che se invece la si annunciava come molto amara. Ecco, hai capito. È complicatissimo, però in poche parole l'aspettativa, quanto noi ci aspettiamo che una sostanza sia amara, certo, influenza il modo in cui la percepiamo, e se quindi l'aspettiamo che sia poco amara, in verità la crederemo sempre un po' meno sgradevole. Fantastico. Alfredo, un'ultima domanda per te, come mai non ti piacciono le pere? Ma dunque, ognuno di noi, i gusti cambiano da persona a persona, la prendo molto lontana. Okay. Infatti, e c'è una certa diversità che sicuramente è basata all'esperienza, ma c'è anche una certa diversità che ha una base genetica. Come vi dicevo, sulla lingua abbiamo delle cellule gustative e queste cellule hanno dei recettori. I recettori sono delle piccole antenne che captano le sostanze chimiche del cibo. Qualcuno di noi ha troppi recettori e quindi vuol dire che è troppo sensibile al gusto. Difatti sarà capitato a certi di conoscere persone a cui, appunto, come dicevi il tuo caso, a cui piacciono i broccoli. Questo perché probabilmente tu hai delle cellule gustative sulla lingua non troppo sensibili, non senza offesa, Federico. No, ma confermo, tra l'altro. Quindi io invece ho fatto dei test dai quali, senza essere troppo sorpreso dal risultato, mi è venuto fuori che ho delle papille gustative molto sensibili, troppo sensibili. E questo spiega perché fin da bambino ero molto schizzinoso, ho sempre trovato la frutta, per esempio, molto acida e molto, molto forte. Per questo detesto i broccoli, bevo poco caffè, insomma, sono una persona molto virtuosa. Grazie davvero ad Alfredo Fontanini. Ciao Alfredo, grazie per aver viaggiato con noi in questa puntata di Terra in Vista. Ciao, a presto. Ciao Telmo, ciao Fede, grazie mille. Mangia le pere! Expo Pub, 100 cose da sapere per stupire mamma e papà. Estonia. Sapete qual è il popolo più canterino d'Europa? È il popolo estone, che circa ogni 2 anni a Tallinn, la capitale, organizza il grande festival della canzone e della danza. Una 3 giorni di balli e di canti che coinvolge giovani e anziani e rispecchia e celebra i principi e le tradizioni del paese. Quando 25 anni fa cadde il muro di Berlino, fu proprio attraverso il canto che l'Estonia lottò per riconquistare la libertà perduta, dando luogo a quella che oggi viene ricordata con il nome di Rivoluzione Cantata. Ma il Festival della Canzone è una tradizione ancora più antica. Pensate che il primo fu organizzato nel 1869, quasi 150 anni fa. Cominciate ad organizzarvi allora, perché la prossima edizione è prevista per il 2017. Il gusto, grande protagonista di questa puntata. Telmo, noi Homo Sapiens siamo, oltre che buon gustai, siamo anche bravi a lavorare il cibo per appunto avere dei buoni gusti. Sì, pensa che qualche antropologo in passato, anche molto importante come Claude Lévi-Strauss, ha detto che noi siamo l'animale che cucina. E alla domanda cosa ci rende unici come esseri viventi, la cucina, essere dei cuochi. Saranno molto contenti tutte le cuoche e le cuoche presenti che ci ascoltano, perché in effetti c'è un modo per combattere quello che abbiamo sentito prima, cioè il disgusto, ed è il fuoco, ed è cucinare i cibi. Noi abbiamo imparato a farlo circa 1 milione di anni fa, si pensa. È stata una conquista complicata perché il fuoco è pericoloso, però prima abbiamo imparato a controllarlo, quello naturale, e poi ad addomesticarlo, cioè a produrlo e a tenerlo. Ci difendeva dai predatori, ma soprattutto ci permetteva di scaldare l'acqua e di cucinare i cibi. Perché è così importante? Per due ragioni: perché cucinando soprattutto i tuberi, le verdure, ma anche la carne, li rendiamo più masticabili per noi in bocca, come dicevamo prima, è anche più digeribile e più nutriente, quindi è un grandissimo vantaggio. In più, come dicono giustamente gli antropologi, la cucina è diventata una sorta di grande rito sociale e culturale. Prova a pensare a cosa vuol dire la cucina per i gruppi umani: vuol dire reperire le materie prime e complimentarsi per chi le trova, conservare i cibi, produrre dei contenitori per tenerle dentro, produrre degli utensili per maneggiarli, poi consumarli tutti insieme, fare un grande pasto tutti insieme in famiglia o nel gruppo, e poi raccontare agli altri attraverso il linguaggio le sensazioni che tu hai provato mangiando un tale cibo. Quindi c'è dentro tutto, e questo è il motivo per cui la cucina è uno dei collanti letteralmente della società, dello stare insieme. E non solo, la cucina è anche un grande laboratorio scientifico. È il momento di Expo Kids. Expo Kids. Dire, fare, giocare. Dire, fare, giocare con la scienza. Lo facciamo con Andrea Vico, giornalista scientifico di TuScience. www.tuscience.it il sito per conoscere tutte le attività scientifiche proposte. Ciao Andrea. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao Andrea. Oggi ci divertiamo col gusto. Cosa ci proponi? Ah, guarda, noi durante le nostre attività abbiamo dei laboratori che sono anche dei camp estivi che si chiamano Scienziati in Padella. E non cuciniamo gli scienziati, ma andiamo a capire cosa succede quando accadono le trasformazioni chimico-fisiche e biologiche ai cibi, agli ingredienti, quando entrano in una padella, in una cucina che è di fatto un grande laboratorio. Una delle gli esperimenti che proponiamo, e quindi propongo anche a tutti i nostri ascoltatori, riguarda proprio il gusto e prevede di andare prima di tutto a fare la spesa, ovviamente, ma non la spesa sul mercato. Andate in qualche negozio di gastronomia un po' più, o di prodotti alimentari un po', diciamo, ben fornito. Sì. E chiedete gli aromi alimentari, che sono appunto delle sostanze, spesso delle polverine, che si possono comprare semplicemente ordinando un gusto. Quindi voi potete comprare l'aroma al bubblegum, al carciofo, al bacon, alla cozza, al tamarindo, al gusto di affumicato, al gusto di pizza. Quindi avete una collezione infinita di gusti che sono tutti racchiusi in piccoli botticini, sembrano quasi dei profumi. Mm-hmm. Dopodiché vi procurate dei vasetti di yogurt bianco e magro. E terzo elemento per il nostro esperimento è una maschera da sub. Ci mettete dentro un calzino pulito, scuro, e la indossate. In questo modo il naso è tappato e anche gli occhi sono, diciamo, la vista è occultata dal calzino, che vi impedisce di vedere quello che vi stanno proponendo. Dopodiché, a turno, uno mescola a caso un po' di questi aromi in diversi vasetti di yogurt e ciascuno proverà a assaggiare. La sensazione in bocca quando entra il cucchiaino sarà da un lato sempre la stessa, perché lo yogurt avrà una consistenza e una freschezza sempre uguale, però l'effetto che scaturirà nella vostra bocca sarà ogni volta diverso, e quindi sarà una piccola gara di famiglia per scoprire quale gusto vi stanno facendo assaggiare. È un bel esperimento per capire come funziona la nostra lingua, da un lato, ma anche che per capire che si mangia con gli occhi e con il naso, quindi non è un solo organo che entra in gioco, ma è un insieme, e quindi anche riprendiamo un po' quello che diceva Alfredo poc'anzi. Certo, la prova pratica delle tante cose che abbiamo detto oggi. Grazie Andrea, come sempre. Insomma, questo è veramente un esperimento molto divertente, vi invitiamo a metterlo in pratica, a sperimentarlo a casa, grandi e piccini insieme. Ciao Andrea, alla prossima. A presto. Buona cucina a tutti. Una filastrocca al traffico, poi ancora qua con Terra in Vista. La prima colazione. Ho un'autentica passione per la prima colazione, vera coccola delicata per chi inizia la giornata. Caffè, latte coi biscotti, che i bambini sono ghiotti. Cereali e frutta fresca, mela, pera, uva e pesca. L'importante è carburare, essere pronti ad iniziare pieni di energia e vigore col sorriso e il buon umore. Terra in vista. Ultima tappa della puntata di oggi di Terra in vista, dedicata al gusto. Andiamo ad ascoltare insieme la domanda che ci ha fatto il nostro giovane ascoltatore. Ma è vero che si possono mangiare gli insetti? Il tema degli insetti nell'alimentazione è un tema che piace, affascina i più piccoli. Chissà se tra un broccolo e un insetto. Ma qui però siamo nel gusto o nel disgusto? E abbiamo ovviamente invitato un esperto in materia. Diamo il benvenuto ad Enzo Moretto, naturalista entomologo, direttore di Esapolis, Musei Viventi degli Insetti della provincia di Padova. Ciao Enzo. Ciao Ciao Enzo, benvenuto. Ciao, grazie. Intanto parliamo un attimo di questo museo, dove si trova? Beh, si trova a Padova, è uno dei settari, è un museo del micro megamondo, in verità comprende molto più che insetti ed è uno dei più grandi a livello planetario, anche se non è molto conosciuto, però è una bella sfida che abbiamo affrontato, visto che gli insetti poi sono la maggior parte degli organismi che popolano il nostro pianeta, ed era peccato non poter affrontare bene questo argomento. Quindi insomma c'è una bellissima occasione per poterli vedere, conoscerli e scoprirli, non per mangiarli però, credo, ma è vero intanto, partiamo dalla domanda che ci ha fatto il nostro giovane ascoltatore, si possono mangiare gli insetti? Ma diciamo che anche per mangiarli abbiamo affrontato questo problema come museo, abbiamo fatto diversi incontri e abbiamo anche aperto le porte al pubblico, che è stato molto numeroso in quelle occasioni. È vero, si possono mangiare. È una cosa che avviene da sempre nel nostro pianeta, anche i nostri antenati, anche dal punto di vista evolutivo, hanno sempre mangiato insetti, solamente che l'Europa, diciamo, e qualche altra parte della Terra, diciamo, è rimasta un po' isolata perché c'è stata la tradizione che si è sempre caratterizzato nel tempo e adesso probabilmente dobbiamo recuperare un po'. Allora, oggi stiamo parlando del gusto, nel gusto entrano anche i fattori culturali, quindi l'abitudine o meno, l'educazione o meno a mangiare certi cibi e a gestire anche certi sapori. Quali sono gli insetti che più vengono mangiati e dove vengono mangiati nel mondo? Ma diciamo che un po' come avviene per tante altre cose, prima le diamo da mangiare gli animali, poi ci accorgiamo su un buono anche per noi. Diciamo quelli che vengono più mangiati attualmente, che sì, ci si rischia a mangiare, diciamo, in Europa sono grilli, cavallette, le cosiddette camole o targhe della farina, di quelle del miele, eccetera, che sono più disponibili, più vicine. In verità nel mondo ci sono 2000 specie di insetti attualmente censite che vengono mangiate, principalmente direi Africa, Messico e America tropicale, Sud America e poi tantissimo sud-est asiatico. Ma io ho letto che addirittura la FAO dice che in futuro potrebbe essere gli insetti una riserva di cibo, di proteine fondamentali. È così? Sì, è così. Diciamo che hanno tutte le caratteristiche, non solo la FAO, diciamo poi anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sulla base ovviamente di ricerche scientifiche, non più solo delle tradizioni, ha stabilito che gli insetti sono un'ottima risorsa, diciamo, di proteine, ma anche poi di grassi polinsaturi e di altre sostanze molto importanti per garantire uno sviluppo corretto. Telmo, scusa, faccio una domanda a Telmo, ma per l'uomo primitivo non era più comodo mangiare gli insetti che andare a cacciare? Sì, certamente, sì. Infatti molti pensano che prima che nascesse il genere Homo già i nostri antenati avessero imparato ad aggiungere un po' di proteine animali proprio attraverso insetti e piccoli animali, quindi senz'altro sono sempre stati presenti nella nostra dieta anche dopo forse. Però io prima ho detto insetto, tu subito hai detto disgusto, nel senso che è proprio la mancanza di abitudine, quindi Beh, come diceva Enzo, è un problema anche di differenze culturali, no? Il gusto si allena, abbiamo visto, si sviluppa nelle culture e per molti di noi c'è questa reazione istintiva di disgusto nel vedere di poter mangiare, che ne so, un gelato con dentro delle larve. Ma Enzo, mi viene anche da dire, per fortuna che tante persone non mangiano gli insetti, nel senso metteremo a rischio il loro numero, la loro sopravvivenza? Certamente noi da oggi in futuro, diciamo, dobbiamo sempre più considerare come utilizziamo le risorse, l'ambiente e la natura, questo è vero, però teniamo presente che le specie di cui stiamo parlando sono molto abbondanti e comuni, nessuno sta pensando di mangiare specie in pericolo di estinzione o fondamentali negli ecosistemi, e chiaramente sottraendo queste chiaramente si creerebbero problemi, però ci sono sicuramente molte cose da esaminare prima di arrivare a un consumo così di massa anche in Europa. Sono tante le problematiche, non sono quelle della conservazione. Beh, gli ultimi dati dicono che sorprendentemente anche gli insetti che sembravano così resistenti in realtà stanno soffrendo un sacco. La diversità degli insetti sta calando parecchio, no? Quali sono gli ultimi dati che avete? Ma diciamo che questo è vero, perché va in pari passo con la distruzione degli ambienti naturali. Essendo le foreste tropicali, per esempio, il più grande contenitore di specie, con la più alta biodiversità, chiaramente la loro distruzione significa l'estinzione letteralmente di molte di queste specie, quindi è logico che questo avviene. Non è la stessa cosa, diciamo, dove c'è un po' di civiltà, uso le virgolette, chiaramente, che ha cercato di tutelare il territorio. Per esempio in Italia, diciamo, abbiamo, anche in Europa, abbiamo adesso delle condizioni per le quali non stiamo più perdendo troppa diversità, addirittura abbiamo anche un'inversione di tendenza per certi aspetti, non solo con gli insetti, ma anche gli altri esseri viventi che sono collegati, ricordiamo, al mondo degli insetti, che sono fondamentali nelle catene alimentari. Il problema grosso esiste chiaramente nelle zone tropicali. Ma ricordiamolo ai nostri ragazzi, ma non solo a quelli, anche ai nostri governanti: dagli insetti dipende letteralmente una parte fondamentale della nostra economia, no? Perché sono anche gli impollinatori e un sacco di colture dipendono da loro, giusto? Se scompaiono loro, sostanzialmente abbiamo dei danni incredibili ai nostri ecosistemi. Sì, viene fatto sempre l'esempio delle api, che era anche Einstein, che altri che sono occupati, che non erano entomologi certamente, ma questo rende il fatto che è talmente banale la cosa. Essendo gli organismi più diffusi, vuol dire la gran parte degli organismi viventi sulla Terra, è chiaro che la vita sulla Terra dipende da loro. E ci sono alcune specie estremamente critiche. Pensate che solamente, per esempio, una farfalla della falena, diciamo della famiglia delle spingi, in una regione tropicale può impollinare gran parte degli alberi della foresta, e solo se scompare questa famiglia di falene, questo gruppetto di falene, e crolla completamente l'ecosistema. Pensate quanto è incardinato sugli insetti, diciamo, è tutto. Pensate alla frutta, alla produzione di ortaggi e tantissime altre cose dipendono non solo dal fatto che sono anche parassiti, ovviamente, che possono anche danneggiarle, ma dal fatto che fanno vivere il terreno, fanno funzionare tutto l'ecosistema e impollinano le piante. Enzo, le zanzare si possono mangiare? Questa è una bella domanda. Beh, tecnicamente sì, non sono velenose, sono un po' piccole, insomma, bisogna trovare il modo di allevarne tante, ma non sembra sia un problema quello, sembra che ci pensino già da sole. Come vendetta, come vendetta. Una vendetta. In compenso, non so se tutti lo sanno, ma ci sono delle zanzare che mangiano altre zanzare e aspettano che abbiano succhiato il sangue umano per dargli succhiare a loro volta il sangue. Ah, ok, sono piccole. Anche l'ecosistema è sempre molto complesso. Quindi c'è la zanzara tigre e la zanzara pigra, mi pare di capire, che è un po' questo. E invece esisteranno dei cuochi specializzati nella cucina degli insetti, immagino. Allora, questa è una bella cosa che io vorrei lanciare come messaggio, perché ci sono anche giovani che stanno ascoltando, e me lo auguro, ma comunque persone di fantasia devono immaginare che il nostro paese ha avuto sempre tante idee sulle cose venute anche da fuori, non solo delle cose top, cioè le trasformate in alta cucina. Una cosa che stiamo anche portando avanti come progetto è quello di trasformare gli insetti da quello che era l'entomofagia, cioè il modo di mangiarli tradizionale, che sembra sempre un po' primitivo, no? Legato poi alla fame, e che non è assolutamente vero, all'alta cucina, perché gli insetti possono diventare alta cucina. Ecco, quindi insomma, questo è il futuro che vi stiamo raccontando anche qui a Terra in Vista. Un grazie a Enzo Moretto. Ciao Enzo, grazie, buon lavoro. Grazie, a presto. Expo Pub, 100 cose da sapere per stupire mamma e papà. Indonesia, sai cos'è il kobek? È un attrezzo da cucina che in Indonesia non può assolutamente mancare. L'Indonesia è anche conosciuta con il nome di Isola delle Spezie, e il kobek è un mortaio utilizzato per combinare le spezie e dar vita ad aromi inebrianti e inediti. I tradizionali utensili della cucina indonesiana sono fatti di legno, bambù, noce di cocco, ceramica e rame, e sono utilizzati per creare piatti come il rendang pandang, che è un piatto di carne speziata, il soto madura, un brodo con carne di pollo, e i satrai, famosi spiedini di carne. Particolarmente importanti in Indonesia sono gli utensili da cucina in terracotta, perché questo materiale ha il potere di aromatizzare meglio i cibi. E queste sono le cose che abbiamo imparato oggi. Che se un cibo mi piace dipende dalla lingua, dal naso e soprattutto dal cervello. Che la cucina è una delle abilità fondamentali che distingue l'uomo dagli animali. che a me il broccolo fa schifo perché è amaro, ma anche se amaro non è detto che sia velenoso. Che i gusti si possono educare, allenare e anche cambiare. Che come cibo del futuro dobbiamo prepararci a mangiare cavallette, grilli e tanti altri insetti. Questa è Terra in Vista, un programma scritto con Margherita Aine e Silvia Righini. Oggi alla parte tecnica Paolo Corleoni. Le attività pratiche proposte erano di Alessandra Falconi e Andrea Vico. Tutto ciò lo potete ritrovare sul nostro sito radio24.it. Andate nelle nostre pagine, lì tutti i contributi extra. Potete anche scriverci. L'indirizzo è terrainvista@radio24.it. La sigla è dei Matita, se volete conoscerli meglio il loro sito è www.supermatita.org. Telmo, pronto per la prossima puntata? Prontissimi, a presto. E saremo qua come sempre con Terra in Vista. Brilli e bralla, bimbi golosi. Vado a fare un po' di spesa, poi vi porto una sorpresa. Fate i bravi, disse a Brilli. Guai bisticci, disse a Bralla. Con un bacio ed un saluto, via la mamma se ne va. A che si gioca? Chiese Brilli. Alla merenda, disse Bralla. E che si mangia? Chiese Brilli. La cioccolata, disse Bralla. La mamma si arrabbierà, sai che a lei proprio non va. La tua pelle che si arrossa, la mia pancia che si gonfia, sentirai come urlerà. Ma che dolori alla pancia, ma che rossore alla guancia. E se stavolta non succede, nessuno qui dirglielo deve. Cominciò la scorpacciata di cacao e cioccolata. Mangia Brilli, mangia Bralla, ride Brilli e ride Bralla. Poi nascosero ogni traccia, ma scordarono la faccia. Ecco qua, disse la mamma, con un bel vassoio in mano. Son tornata dalla spesa. Chi è che scarta la sorpresa? Brilli e Bralla. Con la mamma ridon tutti, sai perché? Sempre cioccolata c'era sulle facce e nei